Le notizie in 60 minuti. Una buona giornata, queste le notizie principali della giornata di Radio 24. Scandalo derivati a Milano, assolte con formula piena, 4 banche e 9 manager. Bruxelles avvisa l'Italia, i fondi europei solo per progetti sul territorio, no al loro uso per abbassare le tasse. Renzi respinge le critiche, dice ridicolo chi mi attacca, sulla legge elettorale se ne parla da lunedì. Questa sera le Paralimpiadi di Sochi, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti boicottano l'apertura, un azzurro positivo al doping. Ebbene, una buona giornata da Enrico Pagliarini. Iniziamo da questa notizia dell'ultima ora. La Corte d'Appello di Milano ha assolto 4 banche. Si tratta di UBS, Deutsche Bank, DEPFA Banche e JP Morgan, imputate per la truffa dei derivati ai danni del Comune di Milano. I giudici hanno ribaltato la sentenza con cui il primo grado le 4 banche erano state condannate al pagamento di 1 milione di euro di multa e alla confisca di 89 milioni di euro. La Corte d'Appello ha assolto, oltre alle banche, anche 9 tra manager ed ex manager degli istituti di credito. Per tutti la soluzione è arrivata perché il fatto non sussiste, quindi si tratta di una soluzione con formula piena. Allora, per capire di cosa stiamo parlando, questo è uno scandalo di cui si è parlato molto qualche anno fa, ma probabilmente per molti è una cosa dimenticata. In diretta Sara Monaci, collega del Sole 24 Ore. Ciao Sara, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, tu hai seguito da vicino e per lungo tempo questa vicenda, allora ricapitoliamo di che cosa stiamo parlando, qual è lo scandalo di cui stiamo parlando. Allora, a questo punto il presunto scandalo, sì, diciamo, certo, dopo l'assoluzione. Si tratta, facciamo pochi passi indietro per riepilogare nel 2005, quindi gli anni in cui i derivati sugli enti locali erano alla ribalta, il Comune di Milano sottoscrisse un bond da 1,68 miliardi, una cifra enorme, la più grande in Europa, e a questo agganciò dei prodotti derivati. I prodotti derivati che ricordo, per semplificare, era inizialmente di un solo tipo, agganciata alla variazione del tasso di interesse. Si trattava della giunta guidata da Gabriele Albertini. Negli anni successivi arrivò il sindaco Letizia Moratti e a questi derivati se ne aggiunsero degli altri. Ci furono circa 7 rinegoziazioni con i cosiddetti credit default swap, cioè dei derivati che tutelano sostanzialmente contro il rischio di fallimento, tutelavano le banche contro il rischio di fallimento dello Stato italiano, quindi Palazzo Marino era di fatto il garante e avrebbe pagato nel caso in cui fosse andata male qualche operazione. Quindi erano situazioni un po' spropositate che abbiamo visto anche in altri enti locali, dove gli enti locali si trovavano paradossalmente a essere garanti e tutelanti nei confronti delle banche stesse, che avrebbero potuto chiedere diritti e soldi agli enti locali. Questo ovviamente ha creato lo scandalo, scandalo che in realtà per la Procura di Milano era sostanzialmente poi quella legata ai costi impliciti. Le banche non soltanto avevano fatto sottoscrivere questi derivati rischiosi, ma chiedevano anche dei costi impliciti, delle commissioni occulte di cui il Comune non si rendeva conto, che erano circa 100 milioni per il Comune di Milano. Quindi la Procura inizia a indagare, nel 2010 c'è l'indagine, la richiesta successiva di rinvio a giudizio, e nel primo grado una condanna per le 4 banche e per 9 manager accusati, lo ricordo, di truffa aggravata, tanto che questi manager non avrebbero poi potuto più per un certo periodo sottoscrivere altri derivati e operare con gli enti locali, quindi una condanna di un certo peso, certo. L'unica al mondo, ecco, dal punto di vista penale. Senti, a questo punto questa assoluzione può avere delle ripercussioni sui conti del Comune di Milano? No, questo no, perché e questo è anche l'argomento, diciamo, su cui ci stiamo interrogando in queste ore, se poi di fatto la sentenza è stata del tutto negativa o del tutto positiva. Io credo che il bicchiere sia mezzo vuoto e mezzo pieno, perché con lo spauracchio dell'azione penale che le banche temevano e che di fatto poi avevano avuto motivo di temere nel nel primo grado, fu aperta una trattativa con il Comune di Milano, una trattativa dal punto di vista civilistico, che ha portato il Comune di Milano a recuperare comunque dei soldi, molti soldi, e a chiudere i derivati. Si parlava di 455 milioni, chiudendo i derivati e guadagnando dei BTP che poi daranno interessi per 200 milioni nei prossimi 30 anni. Quindi dal punto di vista civilistico e amministrativo non cambia niente, la trattativa tra comune e banche è stata comunque chiusa e così rimane. Questa è una sentenza di tipo penale, dal punto di vista penale quindi non c'è reato, rimane però aperto lo scenario civilistico che poi alcuni comuni hanno comunque praticato, non sempre con esiti positivi, favorevoli. Certo. Sì, esatto, però nel Comune di Milano è stato, diciamo, un caso in cui sicuramente si è chiusa con una sostanziale vittoria dal punto di vista civilistico per il Comune di Milano comunque. Bene, grazie Sara e buon lavoro. Naturalmente grazie. Torneremo su questo argomento, grazie per la chiarezza con cui abbiamo spiegato questa notizia. Adesso la politica italiana, le 13:06, Elisabetta Fiorito in diretta da Montecitorio. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno Enrico. Allora, c'è Elisabetta subito. Fiorito collegata con sì, noi. Pronto? Eccola, pronto? Qua, eccola qua. Allora eccoci. Elisabetta, ti leggo una notizia che non so sì. quanto possa influire poi su il lavoro del governo. L'Unione Europea proprio poco fa ha fatto una nota, diffuso una nota che dice: attenzione che i fondi della politica di coesione, i famosi fondi europei, devono essere utilizzati per finanziare nuovi progetti per lo sviluppo, quindi non possono essere utilizzati per coprire la riduzione delle imposte come quella potenzialmente legata al cuneo fiscale. Poi vedremo se questo, insomma, avrà un impatto sui lavori del governo. Oggi Renzi ha parlato, ha già detto qualche cosa sulla situazione e sul lavoro del governo. Sì, intanto proprio riguardo a quello che dicevi tu, c'è un battibecco tra Renzi e l'ex ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni. Intanto il premier risponde alle critiche sui primi giorni del governo, contro di me solo pregiudizi, dice: il 12 presenterò le prime proposte, le critiche ridicole arrivano anche da chi mi sosteneva, ma vado dritto, l'Italia si può cambiare, la mentalità di chi vive di pregiudizio no. Il governo tiene, spiega Renzi, e i primi risultati arriveranno quindi mercoledì con le misure su lavoro, scuola e casa. Ma invece è arrivata la stoccata, come ti dicevo, dell'ex ministro delle economia Fabrizio Saccomanni, che dice al Corriere: hanno avuto paura dei nostri risultati, fra un anno sarebbe stato più difficile cacciarci. Risponde Renzi: sui conti è stato lo stesso Saccomanni ad avvisarci che le cose stavano in un certo modo, non capisco attacchi e ironie, e quindi aspettiamo questo piano per il lavoro la prossima settimana. Enrico. Allora, a proposito della legge elettorale, ci sono novità o tutto è rimandato alla prossima settimana? Allora, lunedì la Camera dovrebbe dare il prima via libera all'Italicum, perché i tempi sono contingentati, la riforma poi passerà al Senato per la seconda lettura. C'è sempre scontro sulla parità di genere, si è aperto un fronte bipartisan, il Presidente della Camera Laura Boldrini ha incontrato le deputate, il rispetto della parità ha detto anche questo è cambiamento, e 90 deputate di tutti i partiti, a parte il Movimento 5 Stelle, hanno sottoscritto un appello per garantire l'alternanza uomo-donna come capolista. Protesta anche dei senatori PD, non possiamo arretrare su questo tema, dicono. Enrico. Bene, grazie ad Elisabetta Fiorito collegata con noi da Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. Questa è la notizia, adesso facciamo il punto con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Buongiorno Stefano, allora buongiorno. Questo weekend porterà qualche novità in vista del ritorno della legge elettorale in Parlamento, insomma alla Camera lunedì? Guarda, io continuo a pensare che la legge elettorale non fallirà per la questione della parità di genere, quindi penso che si troverà uno sbocco, però rimane il fatto che il quadro generale comincia a offrire motivi di preoccupazione, ed è curioso che un governo appena nato sia già lievemente logorato, diciamo. La sensazione c'è, e non riguarda soltanto la legge elettorale, che peraltro dovrà passare al Senato, dove tutto sarà più difficile. Poi c'è lo stesso progetto di riforma del Senato che ancora deve essere definito e i tempi stringono. C'è questa polemica con il predecessore Saccomanni, che ci riporta al vizio di origine del governo, cioè quello strappo che ha portato alla caduta di Enrico Letta e che in qualche modo adesso Renzi è costretto a scontare. Insomma, io credo che Renzi la prossima settimana debba veramente mostrare di saper correre, di andare molto avanti sulle cose sostanziali, non sulle cose di contorno come le visite nelle scuole, sulle cose sostanziali, perché davvero lui rischia, così come è arrivato rapidamente a Palazzo Chigi, lui rischia però di logorarsi altrettanto rapidamente. Stefano, grazie come sempre per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Arrivederci. Adesso parliamo del Movimento 5 Stelle, chiudiamo così questa pagina dedicata alla politica. Questa volta non c'è stato bisogno neppure della classica votazione via web, è bastata infatti la scomunica di Beppe Grillo e poi una riunione del gruppo a Palazzo Madama per cacciare dal Movimento 5 Stelle altri 5 senatori. Bencini, Bignami, Casaletto, Mussini e Romani nei giorni scorsi avevano annunciato le loro dimissioni per protesta contro l'espulsione degli altri 4 dissidenti, con i quali ora potrebbero formare un gruppo autonomo. Quel che è certo è che nel Movimento 5 Stelle i fedelissimi di Grillo in queste ore restano impressi per fare in modo che chi non condivide la linea politica dettata dall'alto se ne vada. Anche per questo altri 5 senatori potrebbero presto lasciare il gruppo. A rendere la situazione ancora più tesa arrivano anche le minacce, come la busta contenente proiettili spedita a 2 dei senatori cacciati la scorsa settimana, Battista e Orellana. A sostegno degli epurati sarebbe sceso in campo anche il sindaco di Parma Pizzarotti, che avrebbe scritto una mail riservata agli altri sindaci pentastellati per prendere le distanze dalle espulsioni, e sarebbe stata proprio quella mail alla base del suo scontro, poi rientrato con Beppe Grillo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Saluto Maurizio Romani, che è un senatore del Movimento 5 Stelle. Romani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Questa mail di Pizzarotti esiste? Allora, senta, la mail di Pizzarotti non l'ho vista, però voglio chiarire perché ci siamo dimessi. Sì. Non per solidarietà con i 4 senatori espulsi, ma per protesta, perché non viene rispettato il nostro regolamento interno. Vede, il regolamento c'è, perché sennò chiunque di noi può essere attaccato per qualsiasi cosa che ha detto o che ha fatto. Magari perché non piace a qualcun altro. Oppure si possono prendere delle decisioni per convenienza personale. Certo. Ieri hanno proposto di ritirare le dimissioni e poi avrebbero riscritto le regole. Ma scusi, le regole ci sono, il punto è quello di applicarle, è inutile farle di nuovo se poi non si applicano. Poi siamo accusati di essere un fuoco amico, i sabotatori, hanno detto che ci siamo isolati da soli, ma senza il regolamento non possiamo essere compatti e non possiamo portare avanti le nostre battaglie. Secondo il regolamento, dica. Senatore, siete stati espulsi con una mail, con una telefonata, con che atto? No, allora, guardi, ancora non siamo stati espulsi. Ah, ecco. Bene, noi abbiamo, allora, c'è in atto una cosa di espulsione, però quello che mi interessa farle capire è che secondo il regolamento non devono esserci capo bastoni, e invece ci sono, e se non fai quello che dicono loro inizia la caccia alle streghe. Poi si ricorre al voto della rete per legittimare quello che è già avvenuto. Insomma, un copione che abbiamo... che viene scritto prima. Allora, lei ci ha detto che non siete stati ancora espulsi ufficialmente, le vostre dimissioni invece ci sono già, formali, scritte. Allora, le nostre dimissioni sono da senatore, non da Movimento 5 Stelle, perché noi crediamo nel Movimento, abbiamo solo chiesto di rispettare il regolamento interno, su questo non abbiamo avuto risposta, anzi, siamo teoricamente stati scacciati senza considerare il lavoro che in questi mesi abbiamo svolto per il Movimento e anche per il Paese. Sì, no, ma mi è chiarissimo. Quindi lei dice noi non usciamo dal Movimento rimanendo senatori, andando o in un altro partito o nel gruppo misto, ci dimettiamo e rimaniamo nel Movimento. Questo è stato il nostro messaggio, perché gli attivisti aspettano che noi lavoriamo, non che discutiamo tra di noi. E soprattutto senza il rispetto del regolamento e il capo bastone di turno che fa come gli pare. Noi dobbiamo essere forti e compatti, il regolamento c'è proprio per questo. Senta, giusto per chiarezza, queste dimissioni devono essere accettate, approvate o valgono? Queste dimissioni devono essere... Allora, io posso restare dentro il Movimento 5 Stelle avendo dato le dimissioni al Senato perché devono essere approvate dal Senato. Quindi il Senato potrebbe non approvare le vostre dimissioni e voi rimarreste senatori? Senatori dentro il Movimento 5 Stelle. Allora, e se non applichiamo il regolamento, noi le ripresentiamo. Ma in questo tempo avremo la possibilità di chiarirsi e di farlo applicare una volta per tutte? Punto interrogativo. Questo, certo. Questo è quello che io voglio far capire. Chiarissimo, capito? Chiarissimo. Che invece all'esterno non si capisce. Sì, ma mi sembra che lei lo abbia chiarito abbastanza, abbastanza bene. Sono contento. Senatore, la ringraziamo e vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà. A presto e buon lavoro. D'accordo, a presto. Bene, ringraziamo il senatore Maurizio Romani del Movimento 5 Stelle e avete capito qual è la questione molto interessante e ricca di sviluppi futuri nei prossimi giorni. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ecco i fatti principali della giornata. Scandalo derivati a Milano, assolte con formula piena, 4 banche, 9 manager. Bruxelles avvisa l'Italia, i fondi europei solo per progetti sul territorio, no al loro uso per abbassare le tasse. Renzi respinge le critiche, oggi dice ridicoli quelli che mi attaccano. Questa sera alle Paralimpiadi a Sochi, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti boicottano l'apertura, oggi è stato trovato positivo al doping un azzurro. Adesso parliamo di un fatto avvenuto ieri, lo avrete sicuramente sentito dai nostri giornali radio. C'è stato uno scontro in una tratta delle ferrovie della Calabria. Ci troviamo a Gimigliano, a poche decine di metri da una stazione che si chiama Madonna di Porto. Fortunatamente ci sono stati solo feriti, certo, due in modo grave, ma le due donne che sono state ferite non sono in pericolo di vita. Si tratta di un tratto con un unico binario e vedremo poi nei prossimi giorni che cosa diranno i risultati delle indagini. Abbiamo contattato naturalmente anche le Ferrovie della Calabria che per motivi anche comprensibili ci hanno detto preferiamo non intervenire e non dire nulla sul punto. Siamo però collegati con Massimo Nitti che è vicepresidente di Astra. Astra è l'associazione delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, quindi sono molte centinaia queste aziende, insomma rappresentano una bella fetta del sistema di trasporto in Italia. Nitti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Voi avete, se non sbaglio, lanciato un, non so se chiamarlo, allarme, comunque avete sollevato il problema della sicurezza, perché se noi andiamo a guardare la sicurezza del trasporto ferroviario in Italia vediamo che i dati, tutto sommato, confrontati con gli altri paesi di tutto il mondo, sono buoni. Forse è diverso il problema di alcune tratte minori, spesso affidate alle società di trasporto locale. Ma guardi, sicuramente per quel che riguarda la rete nazionale l'Italia è tra le prime nazioni europee in termini di sicurezza, anche in virtù degli investimenti notevoli che sono stati fatti in questo campo. Per quel che riguarda le reti regionali rappresentano quasi 3.600 km di linea in Italia, oggi trasportano circa 215 milioni di viaggiatori l'anno, quindi stiamo parlando di numeri assolutamente importanti. La realtà purtroppo, Astra l'ha denunciato più volte, è che ad oggi per quel che riguarda gli investimenti in sicurezza, e quando parliamo di sicurezza stiamo parlando di sistemi di controllo automatico della marcia dei treni, quelli che possono impedire che si creino situazioni di pericolo dovute a una serie di situazioni, compreso l'errore umano, ove questo dovesse accadere. La situazione dell'attrezzaggio delle reti regionali direi che è abbastanza disastroso ad oggi. Teniamo conto che su 3.600 km di linea ad oggi risultano attrezzati con sistemi di controllo automatico soltanto l'1% della rete e il 10% è in corso di attrezzaggio. Quindi abbiamo una situazione di arretratezza rispetto alla rete nazionale pesante, che Astra ha più volte denunciato. A questo c'è da aggiungere poi che nel rispetto di un decreto che è stato emanato nel 2008, il DM81T, è previsto per legge che tutte le reti regionali vengano attrezzate, ma tutte le reti comprese nel decreto legge 188 del 2003, cioè le cosiddette reti interconnesse alla rete nazionale. Nel caso della Calabria, per esempio, la Calabria non aveva e non ha l'obbligo dell'attrezzaggio perché è una rete non interconnessa Noi ci siamo sempre opposti a questa interpretazione della norma, perché non riteniamo che esistano viaggiatori di serie A e viaggiatori di serie B, o sicurezze di serie A e sicurezze di serie B. Quindi abbiamo più volte richiesto che anche le reti non interconnesse fossero attrezzate con i sistemi di controllo automatico della marcia dei treni. È chiaro che stiamo parlando di investimenti di centinaia di milioni di euro. Esatto, chi dovrebbe pagare? Ma guardi, su questo è in corso una diatriba fra le regioni e il ministero. È chiaro che le reti sono di proprietà delle regioni, e questo purtroppo ha rallentato notevolmente il processo di attrezzaggio. Però diciamo che su questo argomento c'è una grande sensibilità da parte di tutti, si sta lavorando alacremente per superare una serie di discrasie che ad oggi hanno rallentato il processo di attrezzaggio. Le faccio un'ultima domanda. Potrebbe essere una soluzione passare queste ferrovie sotto l'ombrello del gestore nazionale, quindi delle ferrovie dello Stato? Ma guardi, intanto questo sarebbe in contrasto con il quadro normativo esistente, ma non cambierebbe la sostanza del problema, nel senso che le risorse che devono essere trovate sono notevoli. Come le dicevo prima, le regioni con le reti più importanti dal punto di vista del trasporto pubblico locale regionale hanno già provveduto o stanno provvedendo all'attrezzaggio. La realtà è che ci sono una serie di realtà locali meno importanti che peraltro, per le quali peraltro non è previsto per legge l'attrezzaggio. Ripeto, la situazione delle ferrovie della Calabria, ma ci sono altre realtà, possono attrezzarsi per loro scelta, ma non hanno un obbligo di legge. E questa è la cosa che ASPRA ha sempre denunciato. Sì, molto chiaro. Ringrazio Massimo Nitti per essere stato con noi, vicepresidente di ASTRA, l'associazione delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia. A presto, buon lavoro, grazie. Adesso parliamo del caso emerso ieri, lo chiamiamo Roche Novartis. Emergono nuovi particolari sul presunto cartello messo in atto da queste due aziende farmaceutiche per promuovere il più costoso farmaco Lucentis. Ai danni dell'Avastin e multate dall'antitrust, lo ricorderete, con 180 milioni di euro. La procura, che ha aperto un'indagine per agiotaggio e truffa aggravata, ha acquisito anche le email dei vertici aziendali. Sentiamo il servizio. In apparenza concorrenti, nei fatti alleate, strette da vincoli di bilancio e controllo societario, la Novartis, che attraverso una società controlla il 33% di Roche, la Roche che controlla il 100% di Genentech, società di biotecnologie che ha sviluppato il principio attivo di entrambi i farmaci. Ecco perché avevano tutto l'interesse le due case farmaceutiche a spartirsi il mercato, spingendo e vendendo il prodotto più caro, il Lucentis, affossando il più economico, l'Avastin, anche mettendo in luce la pericolosità degli effetti collaterali e rinunciando a farsi concorrenza, anzi aiutandosi, pubblicamente ad esempio con dichiarazioni esplicite. Nel 2012 il numero uno mondiale di Roche afferma che se sua moglie avesse un problema agli occhi le consiglierebbe il Lucentis, ovvero il farmaco della concorrente, 10 volte più caro rispetto a quello prodotto dalla stessa Roche, l'Avastin, che non ha indicazioni specifiche per la maculopatia, ma ha la stessa efficacia. Alleati anche nel privato, nelle mail che i due amministratori italiani si scambiano, acquisite dalla Procura di Roma, si chiamano tra loro caro, e in una la D di Roche quasi si scusa per l'ampia fetta di mercato che ancora ha l'Avastin. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci colleghiamo con l'Ucraina, l'inviata del Sole 24 Ore a Kiev, Antonella Scott. Buongiorno. Buongiorno. Allora, stiamo vivendo giorni di impasse, potremmo dire, sta succedendo molto poco sul campo, le diplomazie internazionali sono al lavoro, potremmo dire che sicuramente alcune ripercussioni di questa crisi sospesa si vedranno da questa sera a Sochi. A Sochi che cosa inizia questa sera? Questa sera tra l'altro sarà presumibilmente davvero una triste apertura a Sochi, sono i giochi paralimpici boicottati da tantissime delegazioni a causa del comportamento russo in Ucraina. L'Ucraina, ricordiamo, alla delegazione ucraina ha confermato la sua partecipazione, anche se è stata pronta a uscire nel momento in cui, ha detto questa mattina al capo delegazione, nel momento in cui la Russia dovesse invadere. Sul fronte della nella diplomazia Russia e Occidente sembrano giocare discipline davvero diverse, condurre un dialogo tra sordi, soprattutto dopo che giovedì, proprio mentre gli Stati Uniti approvavano le prime sanzioni e l'Unione Europea chiedeva alla Russia di cambiare linea, il Parlamento della Crimea ha approvato una richiesta di adesione alla Russia, che ora dovrà essere confermata da un referendum anticipato al 16 marzo prossimo. Dunque sul terreno la Russia, che con la Duma di Mosca ha dichiarato oggi di sostenere la richiesta, appoggia lo strappo continuando a tagliare i ponti alla diplomazia in cerca di una via d'uscita. Sì, a questo punto diciamo una delle ipotesi, poi parliamo magari di eventuali reazioni della presidenza, quindi di Putin, ma la situazione potrebbe molto probabilmente essere quella che la Crimea se ne vada o i russi si prendono la Crimea, questa potrebbe essere una delle ipotesi? Sì, nel referendum i quesiti che verranno sottoposti agli abitanti della Crimea, che ricordiamo per la maggioranza, circa un 70% sono di etnia russa, dovranno scegliere la domanda sarà: siete favorevoli a un'annessione alla Russia, quindi proprio a una vera e propria, come un soggetto uguale agli altri che faccia parte della Federazione Russa, oppure preferite ritornare a dare alla Crimea, che attualmente è una repubblica autonoma, rafforzare l'autonomia della repubblica all'interno dell'Ucraina. Questa sarà la scelta che verrà posta agli abitanti della Crimea. No, naturalmente stiamo parlando di una repubblica autonoma che fa parte dell'Ucraina. Allora a questo punto, Antonella, ti chiedo quale e se c'è stata una reazione ufficiale, una dichiarazione ufficiale da parte di Putin su quello che sta succedendo e su quello che è stato deciso dal Parlamento della Crimea. No, ufficialmente ancora questa mattina Putin non ha commentato la decisione di Simferopol, ma ha parlato per lui il portavoce Peskov e davvero un po' in modo surreale ha confermato che Russia e Occidente in questo momento stanno parlando lingue diverse, si è rammaricato del fatto che gli sforzi di Putin per una de-escalation in Ucraina non vengono compresi e ha detto letteralmente che Putin quasi ogni giorno prova a spiegare la posizione russa ma si scontra in un muro di incomprensione. Ricordiamo tra l'altro che nelle ultime ore, per la seconda volta in pochi giorni, Putin ha parlato nella nostra notte scorsa al telefono con Obama, che Obama è tornato a definire violazione della sovranità ucraina le azioni della Russia in Crimea, ma Putin ha risposto dicendo che il legame tra Russia e Stati Uniti non dovrebbe essere sacrificato a divergenze su quelli che ha definito problemi internazionali, quindi appunto lo riporta al piano, un piano di divergenze, di incomprensioni. Sì, oltre che incomprensioni potremmo dire che alcune dichiarazioni vanno anche sul comico, perché sempre Peskov, ho letto questa mattina che dice tutto quello che sta succedendo in Crimea non ha nulla a che vedere con la Federazione Russa, ricordiamo che i militari che hanno preso il controllo della Crimea sono russi che stanno controllando la situazione. Bene, Antonella, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, a presto. Grazie, arrivederci. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Lo scandalo derivati a Milano. Sono state assolte con formula piena 4 banche e 9 manager. Bruxelles avvisa l'Italia. I fondi europei solo per progetti sul territorio, no al loro uso per abbassare le tasse. Renzi respinge le critiche. Ridicolo chi mi attacca. Questa sera le Paralimpiadi di Sochi, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti boicottano l'apertura, un azzurro trovato positivo al doping. Adesso ci sono i mercati finanziari. Borse in diretta. Buongiorno a Ceo Condina dall'agenzia Radio Cori, il Sole 24 Ore. Buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, quali sono? Bene, innanzitutto iniziamo dall'andamento generale della borsa, poi vediamo se ci sono titoli sotto i riflettori. Ceo. Ma guarda, direi un andamento leggermente negativo. I mercati nelle ultime settimane hanno corso abbastanza. Oggi c'è grossa attesa per il dato che uscirà alle 2:30, che è quello sul mercato del lavoro americano di febbraio, un dato che potrebbe poi influenzare anche la politica della Federal Reserve in materia diciamo monetaria, e quindi per adesso le borse restano abbastanza guarding. Per quanto riguarda i titoli più in evidenza, c'è il Monte dei Paschi che torna diciamo a farsi vedere, più 1,4%, in questo momento il miglior titolo, è già passato di mano oltre il 4% del capitale, ricordiamo che ieri era stato scambiato il 15% del capitale. Telecom Italia? Telecom Italia ha vissuto una seduta abbastanza in altalena, aveva esordito a meno 3% dopo i conti 2013 e soprattutto dopo che la società aveva dichiarato l'azzeramento del dividendo sulle azioni ordinarie, poi è risalita, ha guadagnato più di un punto percentuale, adesso quota più 0,3%. Chiudiamo con lo spread, ormai è diventata una moda dare un'occhiata tutti i giorni allo spread, una volta si dava un'occhiata al cambio euro-dollaro, allora che cosa possiamo dire sul differenziale BTP-Bund? Sale leggermente oggi, ma resta comunque ai minimi sotto 480, in questo momento per l'esattezza 478 punti base. Benissimo, grazie e buon lavoro, a presto. Anche a voi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo alle 13.36 minuti, adesso ci occupiamo dell'ex leader delle milizie congolesi, Germain Kutanga, che è stato giudicato colpevole dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA di complicità per crimini contro l'umanità. È stato però prosciolto dall'accusa di schiavismo sessuale e di reclutamento di bambini soldati. Katanga, che aveva sempre negato le accuse ed è stato trasferito nel tribunale dell'AIA nel 2007, è stato dunque ritenuto responsabile della morte di più di 200 abitanti avvenuta nel 2003 in una provincia ricca d'oro nel nord della Repubblica Democratica del Congo. Ricordiamo che nella guerra interetnica scoppiata nel paese fra il 1999 e il 2003 vennero uccise circa 50.000 persone. All'indomani dell'annuncio del presidente venezuelano Nicolás Maduro di avere rotto i rapporti politici e diplomatici con Panama, il Venezuela ha ordinato all'ambasciatore e altri 3 diplomatici di lasciare il paese entro 48 ore. Maduro ha annunciato la rottura dei rapporti con Panama dopo che il paese ha indetto un vertice dell'Organizzazione degli Stati Americani sulle proteste che da settimane scuotono il Venezuela. A metà febbraio il governo di Caracas aveva espulso 3 funzionari dell'ambasciata degli Stati Uniti perché avrebbero incontrato gli studenti durante le recenti proteste. Il premier turco Erdogan ha detto che il suo governo potrebbe, pensate, addirittura proibire Facebook e YouTube, mentre la pubblicazione online di una serie di intercettazioni compromettenti continua a sollevare nuovi sospetti sul suo coinvolgimento in vicende di corruzione in servizio. Lo hanno definito il sultano postmoderno. Il premier turco Erdogan, il cui governo è indebolito da una serie di scandali, ieri affermava ad essere pronto a lasciare la politica se il suo partito islamico non fosse arrivato primo alle amministrative del 30 marzo. I sondaggi lo danno in forte calo di consensi rispetto al 50% ottenuto alle politiche 4 anni fa. Oggi però le parole sembrano cambiare e in una dichiarazione al paese Erdogan annuncia, anzi minaccia, di far proibire YouTube e Facebook in Turchia dopo le elezioni. Ci sono delle nuove misure che noi prenderemo in questo campo dopo il 30 marzo, compresa un'interdizione di YouTube e Facebook, dice. La notizia arriva dopo il già recente varo di una restrittiva e molto criticata legge in materia di internet. La rete è in Turchia spesso, se non l'unico, veicolo della protesta popolare e delle denunce nei confronti dei politici. Attraverso il web si sono mobilitati e si sono coordinati i manifestanti di Gezi Park e nello stesso modo sono state rese pubbliche le registrazioni di alcune telefonate del premier che lo coinvolgono direttamente in casi di corruzione. Nel nuovo regolamento che il governo turco sta preparando, anche multe salate per chi posta online foto di alcolici. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia. Sono state confermate in corte d'appello a Cagliari le condanne per i 3 manager imputati, mentre è stata assolta la Saras dalla responsabilità civile per la morte di 3 operai avvenute il 26 maggio 2009. Vennero uccisi dall'esalazione di azoto mentre pulivano un serbatoio nell'impianto di raffinazione di Sarroc, vicino a Cagliari. Un promotore finanziario di Faenza ha truffato una quarantina di persone, clienti della banca presso la quale lavorava. La truffa è di 3 milioni di euro, ma pensate, andava avanti da quasi 20 anni. Lo hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Ravenna. Valentina Furlanetto ha sentito il tenente Anna Maria Pallozzi. La vicenda è venuta alla luce quando il promotore, diciamo, non è più riuscito a gestire il vorticoso giro che aveva messo in piedi e quindi si sono create una serie di circostanze a lui sfavorevoli che hanno creato i presupposti per la scoperta delle condotte di truffa, diciamo. Inoltre sono partite varie denunce sia dalle parti offese che dalla stessa banca e da lì la Procura di Ravenna ci ha delegato le indagini. Quante persone sono state truffate? 41, soprattutto persone anziane, persone, diciamo, conoscenti e amici del promotore stesso, ma per lo più persone anziane che appunto lui è riuscito a raggirare, far sì che si fidassero di lui. A quanto ammonta questa truffa? 3 milioni di euro. Che sono stati estorti, quindi? Sì. Mi spiega come? Sì, praticamente lui si appropriava delle somme, soprattutto facendosi consegnare del denaro contante, facendo credere che gli investimenti sarebbero stati più remunerativi, quindi occorrevano contanti, oppure assegni bancari senza l'indicazione del beneficiario, che poi intestava lui stesso. È una truffa che ha delle radici lontane nel tempo. Sì, circa 20 anni, per la precisione dal 93 che lui stesso appunto prestava servizio, ha iniziato a svolgere il lavoro presso la banca. Beni per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo dai carabinieri nel Barese. Si tratta di immobili, attività commerciali, 3 autovetture e 8 conti correnti, tutti riconducibili a Cosimo Zonno, 70 anni, di Toritto, in provincia di Bari, pluripregiudicato, arrestato l'11 febbraio nell'ambito di un'operazione antidroga contro una banda di trafficanti. I beni erano stati intestati a parenti o a prestanome. Sono le 13:42 minuti, tra pochi secondi, adesso come tutti i venerdì, l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Siamo a Pitelli, sponda orientale del Golfo di La Spezia. Da lassù si vede il mare davanti alla città e quelle navi militari e civili che entrano ed escono dal porto ogni giorno, ad ogni ora. Da quella collina puoi osservare la bellezza del Golfo dei Poeti, Porto Venere, l'isola di Palmaria. Le case che stanno laggiù, dall'altra parte della baia, sembrano punti rossi persi in un mare di blu intenso. E i lievi pendii che vanno dalle Cinque Terre fino all'ultima propaggine del promontorio fanno la bellezza di un posto che sa di magia. È stato così da anni, fino a quando gli scavi delle discariche abusive hanno distrutto uno spicchio d'Italia. Sostanze tossiconocive ammassate una sull'altra in un groviglio difficile da sbrogliare. 14-15 discariche che dominano da anni il lungomare dell'arsenale di La Spezia. I cittadini sono preoccupati, formano comitati. Oggi dicono che la vicenda di Pitelli, pur chiusa da un nulla di fatto giudiziario, è una ferita ancora aperta che si manifesta nelle operazioni di bonifica sulla collina. E la recente emissione degli inviati del Ministero dell'Ambiente con i contatori e gli strumenti di rilevazione dell'inquinamento ha il sapore di una vicenda tutt'altro che conclusa. Ma quello di La Spezia continua ad essere il porto dei misteri. E l'ultimo è fresco e risale a lunedì 3 marzo. Una nave bianca e blu attracca a lunedì notte al molo dell'arsenale e riparte poi frettolosamente all'alba dopo aver imbarcato un carico sconosciuto. C'è il mistero di uomini vestiti come astronauti che si muovono nel buio, di vigili del fuoco richiamati fuori dal turno quando già riposavano, della Digos che sorveglia e dei mezzi della Marina Militare disseminati a protezione intorno al porto. Di certo c'è che l'arrivo e la partenza della nave non sono stati annotati sui registri ufficiali del porto e nessuna risposta giunge dalla Marina Militare, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Difesa. Una nave russa proveniente dalla Francia? Oppure un carico composto da materiali destinati ad una bonifica industriale? Prima di dare la parola ad America 24 e a Mario Platero abbiamo altre due notizie. Una riguarda le condizioni di Michael Schumacher, che non cambiano purtroppo. Michael si trova sempre in una fase di risveglio, la situazione clinica è immutata, ha scritto oggi Sabine Kemm, che è la manager di Schumacher. Schumacher, lo ricordiamo, dal 29 dicembre è ricoverato all'ospedale di Grenoble. La manager scrive anche: ogni informazione medica che non sia confermata dall'equipe sanitaria deve essere considerata infondata. C'è stato un caso di doping alle Paraolimpiadi di Sochi che iniziano oggi. L'azzurro Igor Stella, giocatore della nazionale di Ice Sledge Hockey, è stato trovato positivo a un controllo e sospeso in attesa di un procedimento che si terrà entro 48 ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Queste le notizie principali di Effetto Giorno. Lo scandalo derivati a Milano. Oggi sono state assolte con formula piena 4 banche, assolti anche 9 manager. Bruxelles avvisa l'Italia e dice i fondi europei devono essere utilizzati solo per progetti sul territorio, no quindi al loro utilizzo per abbassare le tasse, semmai il governo ci avesse pensato. Renzi oggi ha respinto le critiche e dice sono ridicoli quelli che mi attaccano. Questa sera iniziano le Paralimpiadi di Sochi e verranno boicottate da Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti. Oggi, sempre per quanto riguarda le Paralimpiadi, un azzurro è stato trovato positivo al doping. Adesso c'è America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. I signed an executive order that authorizes sanctions on individuals and entities responsible for violating. Barack Obama, lo avete sentito, il presidente americano ha annunciato ieri nuove sanzioni, restrizioni sui visti ai leader russi coinvolti nell'operazione militare in Ucraina, ad alti funzionari dello Stato russo, ed ha affermato che un referendum sul futuro della Crimea e in violazione della legge internazionale. C'è stata anche una chiacchierata di un'ora tra Barack Obama e Vladimir Putin ieri pomeriggio, e Barack Obama ha chiesto al leader russo di risolvere in modo diplomatico la questione, di negoziare col governo dell'Ucraina e di trovare una formula che, dobbiamo immaginarlo nel linguaggio diplomatico, quantomeno salvi le apparenze. È una situazione, come ha detto lo stesso Barack Obama, fluida, in evoluzione. Non credo che, rispetto a quello che abbiamo detto nei giorni passati, oggi possa aggiungere molto di nuovo su questa crisi. Torneremo a parlarne nei prossimi giorni, ma preferirei affrontare oggi un tema caro alla nostra radio, un tema economico. Bene, lo scampanellio di Wall Street tradizionale, foriero di ottime notizie, qualche volta di notizie non buone, è simbolico di quello di cui voglio parlare di finanza e di economia, ma è più appropriato in questa circostanza specifica che io vi faccia ascoltare questo. Ecco, chiamiamolo uno scampanellio rinforzato. Sono gli scampanellii, per esempio, dei flipper, quando i tabelloni impazziscono e i suoni si inseguono. Perché? Perché il 9 marzo avremo il quinto anniversario del bull market, della corsa al rialzo dei titoli di borsa, con un guadagno dell'S&P 500 in questi 5 anni, dal minimo del 9 marzo del 2009 ad oggi, un guadagno, vi dicevo, del 173%. Questo aumento è il secondo migliore degli ultimi decenni, è stato superato soltanto dal 228% che si è registrato nel quinquennio 1982-1987. Lì però c'è stata la rivoluzione reaganiana, la deregolamentazione, l'ingresso in una nuova economia molto più flessibile e molto più aggressiva. E allora, la domanda è lecita. Ma questo bull market, questo mercato del toro continuerà fino a quando? Come va l'economia americana? L'economia americana è cresciuta bene l'anno scorso, per il primo trimestre di quest'anno ci si aspetta un tasso di crescita attorno al 2%, dunque più basso di quello che si aspettavano gli ottimisti, però dovrebbe tornare a risalire nel corso del 2014 e di nuovo dare performance attorno al 3% per alcune basi trimestrali. Comunque sia, l'economia americana cresce, la borsa è andata bene. Se dovessero esserci delle correzioni, ci saranno. Però nel frattempo qualche cosa è successo. Il disavanzo pubblico sul deficit è migliorato, è sceso addirittura, pensate, al 4% ed era arrivato fino al 10%. E da noi si dice no, non potete salire sopra il 3% perché sennò sarebbe un disastro europeo, sarebbe un disastro contro quelli che sono stati gli accordi siglati nel momento in cui è nata la valuta unica. Di questo vorrei parlare oggi con Marco Magnani, che insegna alla Harvard Kennedy School of Government a Cambridge, appunto, e che ha scritto un libro appena uscito, 7 anni di vacche sobrie, uno studio per cercare di dare consigli su come migliorare la crescita, le prospettive di crescita, soprattutto in Italia. Buongiorno Magnani. Buongiorno. Allora, scusi, ma me lo deve consentire, però, insomma, il suo libro dice 7 anni di vacche sobrie, e qui, se per lei le vacche sobrie sono, abbiamo visto, un aumento del 173% degli indici di borsa dello Standard & Poor's, beh, cosa saranno le vacche grasse? Beh, le vacche grasse ci sono certamente sui mercati finanziari, come tutti sappiamo poi l'economia reale non sempre è la stessa cosa, ma direi che oltre a questa differenziazione c'è anche l'economia americana che sta riprendendo, l'ha citato lei nei dati dell'ultimo trimestre con un aumento della crescita del 2,5%, il trimestre precedente gli Stati Uniti addirittura sono cresciuti oltre il 4%, quindi un'economia che dopo aver ristrutturato pesantemente negli ultimi anni approfittando della crisi oggi riparte e riprende energia, e invece l'Italia dove non c'è stata una grande ristrutturazione, non sono state imparate secondo me le lezioni da questa crisi e quindi non ripartiamo, quindi in realtà i 7 anni di vacche sobrie sono un auspicio, perché la speranza è che non siano altri sette anni di vacche magre per l'Italia, come potrebbe invece essere. Ecco, focalizziamo sull'Italia, perché vede, io spesso alla mia trasmissione radiofonica esprimo una tesi che poi coincide con alcune delle posizioni di molti economisti americani, e cioè che l'Italia, come altri paesi europei, si è trovata soffocata da una serie di regole del gioco che hanno avvantaggiato, nel momento in cui si è formata l'Unione Monetaria Europea, la Germania, a scapito degli altri paesi. Ma sicuramente diciamo, le regole forse in parte vanno aggiustate e in parte condivido la sua posizione, però vorrei fare un passo indietro. Le regole le abbiamo fatte tutte insieme, quindi abbiamo anche noi come italiani partecipato al gioco, forse contando meno di quello che avremmo potuto, ma qui la responsabilità viene dal fatto che in Europa storicamente non mandiamo le nostre migliori risorse, ma abbiamo sempre un po' snobbato l'Europa. Abbiamo fatto le regole insieme finché le regole ci hanno avvantaggiato e abbiamo avuto dei benefici, perché ricordiamoci che l'introduzione dell'euro e la costruzione dell'euro ha portato dei benefici anche alle imprese italiane, ci andava bene. Oggi che paghiamo magari qualche dazio, ci lamentiamo e vogliamo riscrivere le regole. Allora dico, facciamo un passo indietro e cerchiamo certamente di andare in Europa e rivediamo certe regole che ci strozzano, però non lamentiamoci sempre delle regole soltanto, e cerchiamo di reagire anche a quelli che sono invece problemi strutturali che ci portiamo dietro da decenni. Apro una parentesi, lei ha lavorato per 10 anni a Wall Street con JP Morgan e poi con 10 anni a Mediobanca, quindi non è soltanto un accademico. Ecco, le garanzie, i suoi investitori, quelli che venivano a investire in Italia, volevano garanzie, ancora oggi non ce le hanno. È vero, però la cosa più importante in assoluto per gli investitori stranieri in Italia è la continuità e la stabilità e la credibilità, quindi se riuscissimo a raggiungere quella sarebbe già moltissimo. Ecco, chiudiamo sul bull market, insomma qua c'è stato, perché scontava il mercato una ripresa dell'economia, dei profitti aziendali. E in Italia c'è ancora molta strada da fare. Secondo lei recupereremo e torneremo al di là dei record storici entro 2 anni? I mercati certamente riprenderanno sull'onda anche di una ripresa generalizzata. Quello che importa però in Italia è una ripresa dell'economia reale, a partire dal mondo del lavoro e a partire dalle imprese che devono tornare a investire nel nostro paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. È domani, giornata della donna, e dunque alle donne voglio dedicare la canzone di oggi con una canzone simbolo della forza femminile di Gloria Gaynor, I Will Survive, una canzone meravigliosa che ha fatto epoca. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24. Chiudiamo questa edizione senza rete, diciamo così, questa edizione di Effetto Giorno, grazie a Fabio Cantadori che si è occupato della parte tecnica, egregiamente, la colpa era della macchina, non di Fabio Cantadori, in questa edizione, grazie anche a Laura Faggin che ci ha aiutato in redazione, tra poco le notizie alle 14.